sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Da 2 anni, perché da 2 anni si è saputo che l'asino, che ha il membro tra gli animali a 4 zampe più lungo, più solido, più forte, quando va con la femmina mette dentro solo 3 centimetri di questo membro, e non si capiva perché. Stamattina c'è stata una dichiarazione ufficiale dell'Università della California: abbiamo capito perché l'asino introduce soltanto 3 centimetri del suo membro virile nella femmina quando si accoppia. Perché? Perché è un asino. Vi dico che cosa mi è successo recentemente. Da Napoli ho viaggiato su un aereo normale, dovevo andare fuori Italia. Salgo sull'aereo, c'è una bellissima ragazza, Gianni, dovevi vederla, una bellissima ragazza bionda che leggeva intensamente un libro, poltrona libera vicino a lei, mi sono fiondato e ho cercato di cominciare una conversazione, niente da fare, leggeva. Allora a un certo punto, proprio anche forte, ho detto: signorina, ma lei legge con una intensità straordinaria, di che cosa parla questo libro? E lei mi ha guardato e soavemente mi ha detto: parla dell'amore. Ah, e che cosa le ha insegnato di così importante, vista la sua straordinaria attenzione? Mi ha insegnato 2 cose fondamentali: che gli amanti sessualmente più potenti sono gli arabi, e quelli più sentimentalmente forti, quelli più romantici, sono i napoletani. E allora io gli ho dato la mano e gli ho detto: signorina, permetta che mi presenti, Mohammed Esposito. Diffidate da coloro che non sanno ridere.